Certe volte Q-U-I yeah. Certe volte e mi confesso. Ascoltami. Certe volte ascoltami. Virus. Certe volte è difficile spiegare. Sai, certe volte sono solo delle storie. E certe volte è difficile creare. Sai, certe volte non sono sempre vittorie. Certe volte io non mi comprendo, sulle due di notte sul foglio rivestendo. Certe volte certe volere volte. Essere padre, vedere proprio figlio, abbracciare la propria madre. Certe volte invece da pensiero stacco, rinnego moglie e figlio, vita, vigliacco. Certe volte certe lascio volte. Stare il ghetto, certe volte preferisco premere il grilletto. Invece la nebbia sale, un nodo in gola, avere il coraggio di premerlo ancora. Certe volte fai che non esisto, certe volte urlare da smontare tutto il Cristo. E quelle volte dove vuoi mollare tutto, lavoro, amici che rimani all'asciutto. E quelle volte quando desideri affetto, ma non c'è nessuno per ti vedi costretto. Certe volte è difficile spiegare, sai, certe volte sono solo delle storie. E certe volte è difficile creare, sai, certe volte non sono sempre vittorie. Abbracciare il cuscino e accontentarti, e quando scende lacrima da solo asciugarti. Certe volte certe vorrei volte. Andare via, scappare da qua un altro giorno nostalgia. Non è lunatico, ma è la situazione che mi coinvolge in ogni mia emozione. Certe volte vorrei morire, ripeto ogni volta mamma dovevi abortire. Certe volte invece abbraccio la vita, con filosofia sia in discesa che in salita. Sclero, momenti certe volte, dove le mie rime nella testa sono coinvolte. Eppure ti ostini a guardare indietro, è tutto nero riflesso su quel vetro. La speranza di vedere il mio passato, ma solo la mia immagine è riflesso d'offuscato. Certe volte è difficile spiegare, sai, certe volte sono solo delle storie. E certe volte è difficile creare, sai, certe volte non sono sempre vittorie. Certe volte in mente quei ricordi, dove c'era amore che hai lasciato e che ti scordi. E mentre metto via tutto ciò che hai regalato, ricordo quanto sangue e pugni chiusi ho versato. Certe volte odio questa gente, certe volte amo ma lo sai raramente. Sometimes scriva così. MBLFSC MBLFSC MBLFSC MBLFSC MBLFSC ignobili.